Oh! Thank you. matutina, usque ad noctem, a custodia matutina, usque ad noctem. Spiret, spiret, Israel, in Domino, spiret, spiret, Israel, in Domino. Spiret, Israel, in Domino, spiret, spiret, Israel, in Domino.